Radiazione 11 febbraio 2013, oggi, da oggi le dirette partono con un'ora in ritardo, abbiamo messo l'ora illegale, non siamo per la legalità nemmeno sull'ora, quindi ora illegale anche per il radiazione, dalle 17 alle 19 il nuovo orario. Forse venerdì ci sarà un cambiamento, perché c'è un'iniziativa qui a Napoli per Marco Kamenich. Comunque avrete tutte le informazioni riguardo all'ora della diretta d'azione di venerdì. Allora, ricordo gli indirizzi mail per radiazione, radiazione@odcc.org, per chi vuole mandare comunicati, scritti, locandine, anche consigli come ci stanno arrivando ultimamente, oppure per il blog dove potete riandare a leggere tutte le notizie date in diretta, radioazione.noblogs.org. Da oggi c'è anche una categoria nuova, c'è la categoria dove trovate tutti gli indirizzi dei compagni detenuti. Ricordo la categoria Ascolta le dirette d'azione, dove potete andare a riascoltare i podcast delle dirette d'azione precedenti, quelle delle settimane scorse. C'è la categoria video, la categoria download, insomma, radioazione.noblogs.org. dateci un'occhiata e ve ne rendete conto. Per la radio la state ascoltando, altrimenti per non partire dal link direttamente potete passare dal blog. Da blog trovate il banner, ci cliccate sopra e vi si appiccia la radio. Accendetela il lunedì e venerdì, altrimenti non sentirete un cazzo. Allora, ora prima di partire con il libro, la diretta d'azione, si aspettano sempre i classici 20 minuti, ora sono le 17.05, quindi almeno un altro quarto d'ora. Ce lo palleggiamo un po' con la musica, vi darò io qualche stronzata, alle 17.20 si parte con il libro. Ci andiamo ad ascoltare gli Asp e il brano Essing Child. Sing, child, better join us. Sing, child, sing, child, sing, child, to make the darkness This is my time to start a great incision. There can only be the light or me, so make up your decision. The black wings I spread wide open, the white of the true sun. My pale face is the moon. Let my children come. Sing, child, sing, child. I breathe in the light, exhale the night, kneel down and pledge allegiance. I will let you burn, and in return I need your full obedience. My sweat will form the new stars. I stain the sky with white. My children. Sing child, sing child, sing child, sing child, sing child, make it out like a star. questi erano gli Asp con il brano Sin Child, storica band industrial dell'epoca, forse dell'epoca. Allora, oggi è lunedì, quindi come tutti i lunedì continueremo nella lettura del libro. Lo ricordo, stiamo leggendo Andracite, abbiamo iniziato la volta scorsa, oggi sarà la seconda mandata di Andracite. Quindi e alterneremo come al solito la controinformazione con la lettura del libro. Oggi di controinformazione proprio notizie non è che ce ne sono tanti, quindi continueremo con quello che stavamo facendo nella diretta d'azione di venerdì, nel raccontare, nello spiegare lo svariato mondo delle microspie. E oggi ve ne racconterò qualche altro tipo, ce ne sono un bel po' di tipi, alcuni da far paura. Quindi lettura del libro, quel poco di controinformazione, anche le microspie sono controinformazione alla fine. Allora, ancora un altro brano, sono 17:10, ci ascoltiamo Yobo Babylon, poi dopo rientriamo, raccontiamo la prima microspia e poi dopo musica e poi si inizia col libro. Allora, Deadbolt Yobo Babylon. Some toothless court held somewhere in Pocatello, Idaho. Sentence was maiming and killing for some riders who didn't have their dough. The FTRA, sociopathic animals with hammers, rail spikes, and homemade shanks, carry out justice among the ranks. It's a cost, I guess, when you're living, riding. Living in a hobo Babylon. Living and riding the trains in a hobo Babylon. Come on, let's take a journey. Trailer, sailor rent. Hammered some bone in Brent. Going out on a westbound freighter. Bundle stiff, some hammer and Decatur. Train riding killer working for the FTRA. Hobo jungles, weekend riders, y'all be afraid. Cause when you're living in the hobo Babylon, riding the train in the hobo Babylon. Train riding kid with dyed red hair. Two bows made of a boxcar quare. It's a Frisco Circle down in Redding, a tramp camp with a few wreck riders. You won't see them ever again alive. Someone captured a bull and they all tortured him. Gave him a curly hand, a Weinstein, and a twisted skipper. Living, traveling. In a hobo Babylon. In a hobo Babylon. In a hobo Babylon. Allora, come detto prima, vi cercherò di spiegare un po' il mondo fantastico, tra virgolette, delle microspie, queste nuove apparecchiature che potrebbero essere nascoste dovunque per piacci nel quotidiano. Di tanto in tanto andremo a spiegare meglio come trovarle e come distruggerle. Ma nel frattempo, cosa buona sempre anche come sono sapere come sono fatte fisicamente tali apparecchiature, o dette anche cimici. L'elemento che più attira l'attenzione osservando una cimice è l'antenna, spiralizzata e circolare, avvolta, rigida, flessibile, lunga, corta, talvolta con forme curiose. Una cimice genera onde elettromagnetiche e necessita quindi di una fonte di energia per poter funzionare, in quanto le onde elettromagnetiche sono energia irradiata nell'etere. Un elemento indispensabile è pertanto la fonte di alimentazione, solitamente una piccola pila o un microalimentatore connesso alla 220, oppure comunque vengono connesse anche alla 220 tramite un trasformatorino piccolo. Per contenere il più possibile le dimensioni viene fatto uso di una guaina termoplastica o resina a protezione del circuito, che rendono il mini apparecchio simile ad una sorta di irregolare tubetto. Ma non sono rari i casi di apparecchi che presentano anche l'elettronica a vista. La microspia, seppur in maniera semplificata, funziona con gli stessi principi di altri sistemi ad onde radio, come cordless, il baby monitor, il telecomando per aprire il cancello. Anche la microspia è soggetta ad ostacoli ambientali ed è limitata nel raggio d'azione. Solitamente la potenza della trasmissione di una microspia è bassa perché una delle necessità prioritarie è quella di massimizzare la durata delle pile molto piccole e di utilizzare minuscoli alimentatori di rete elettrica 220 volt. Possono inoltre essere dotate di circuito VOX, che permette la trasmissione dei dati solo quando nell'ambiente sorvegliato sono presenti voci o rumori, consentendo così di allungare la durata della vita delle batterie e di ridurre il rischio di intercettazione tramite un rilevatore di microspie, o detto anche scanner. Inoltre le microspie radio possono essere dotate di un controller remoto, un telecomando che consente di attivare o disattivare le microspie radio in modo da renderle non rintracciabili in caso in cui la zona controllata fosse sottoposta a bonifica. La bonifica, lo ricordiamo, è quando vi mettete a cercare le microspie in casa. La ricerca della microspia viene detta bonifica. Vengono utilizzate spesso in ambienti domestici e lavorativi. Le piccole microspie cimici spia possono essere inserite in minuscoli oggetti come batterie di cellulari, ciondoli, eccetera, eccetera, e occultate in capi di abbigliamento. Il raggio d'azione medio di una microspia è decisamente contenuto, pari a circa 10-200 metri tra ostacoli e 500-1000 metri in assenza di ostacoli significativi tra trasmettitore e ricevitore. Quindi è inutile dirvi che basta un'auto sotto casa vostra o nelle vicinanze per ascoltare quello che dite in casa. La microspia è spesso operativa su frequenze radio UHF, che sarebbe Ultra High Frequency, che consentono una ridotta lunghezza dell'antenna, canali radio solitamente più liberi ad altre trasmissioni, salve gamme particolarmente sature, ad esempio la 433 e la 434 MHz. Allora, questo è giusto per farvi un'introduzione per quanto riguarda il mondo delle microspie. Ora ci ascoltiamo un altro brano, poi c'è Marcello che farà una piccola intro della lettura precedente, continuerà col capitolo, col nuovo capitolo, poi un brano e poi dopo passeremo microspia, capitolo e musica. Ora ci ascoltiamo un brano di Avenue Electronic, We Friend in England, e poi torniamo qua. Make a final answer. 13, ricapitoliamo il punto dove eravamo arrivati nella lettura di Antracite, uno dei romanzi che noi riteniamo più affini o comunque non lontani dal nostro modo di vivere e pensare quotidiano. Stiamo seguendo le avventure del Palero Pantera, che in questo caso ci mostra, attraversa le lande minerarie degli Stati Uniti del 1873. Palera, che come abbiamo anche ascoltato ha attraversato varie vicissitudini di questo momento storico, preso a esempio delle nostre dei nostri giorni, è partito in treno per raggiungere un'organizzazione segreta dei minatori irlandesi che appunto sono in sciopero in una di queste contrade, perché deve assumere un contratto per scoprire, per far fuori, quindi una spia, un'infiltrata dell'agenzia Pinkerton, che all'epoca era la maggior struttura di investigazione, di lotta anti-operaia e anti-anarchica, antisocialista, anti-insurrezionale. Terra attraversa in treno queste lande, arriva in un paese, si mette in contatto con l'organizzazione e subito l'organizzazione gli crea uno scudo protettivo, descrivendolo come a sua volta un infiltrato, in modo tale da dargli agio nel contattare le altre spie, in tempi in cui le spie erano ancora di carne e ossa. Giusto prima di cominciare la lettura sottolineiamo che siamo in diretta, una diretta d'azione, quindi chi ci vuole ascoltare non ha bisogno di violare le nostre case, i nostri domicili, ma basta collegarsi sul nostro sito per sapere come la funziona. Antracite 4 e 15. Pantera attese che Shep avesse finito la sua sorpresa. Intanto lo osservava in maniera interrogativa per fargli comprendere che aspettava le conclusioni. Notò che nel capo di vigilante tutto era largo, la fronte, le ossa del viso, il mento, il corpo. Solo il naso era sottile e acqua. A lui non piaceva la certa cosa. Shep staccò finalmente le labbra da bocca. Michael Bird era rimasto in piedi accanto a lui, un bastone di tomare. L'altro lo guardò e gli fece lo stesso. Tutto il cielo di complicità era un invito ad andare. Bird osservò, obbedì senza perdere neanche un momento. Finalmente Shep accorse di boccare tra le due mani e potete il viso verso Pantera. Ora non sapete dopo. Tutto benissimo, Franklin conferma che siete dei suoi, anzi, dei nostri. Mi raccomanda di mettervi in contatto con gli altri agenti Pinkerton, sia a Skulk il Canti che a Carbon County. Troverete le credenziali che vi servono all'ufficio postale della stazione di Shenandoah. Pantera celò con cura ogni manifestazione di sorpresa. Simultaneamente tolse il dito dal revolver che aveva sotto lo spolverino. Devo andare là? Così pare. D'altra parte qui a Stamaca vi siete già fatto conoscere abbastanza. Era da un pezzo che Kate non mangiava con gusto salsiccia di fagioli. Adesso Pantera si sentiva abbastanza rilassato da seguire il suo esempio. Non prima di un'ampia sorsata di birra, però. «Ci sono cose che non mi riescono chiare», disse dopo aver masticato i primi due bocconi di carne. «Qui i minatori sono in sciopero, se non sbaglio». «Sì, ma stanno per riprendere il lavoro». «Lo so, però oggi ho udito degli irlandesi considerare i minatori come nemici. Eppure lavorano in miniera anche loro. Da cosa dipende l'ostilità? Dall'origine etnica?» «No». La negazione di Daniel Shep fu categorica. Sorrideva di nuovo, ma non nel modo esagerato di prima. Vedo che non sapete come è organizzato il lavoro nelle miniere, eppure è un fattore essenziale per capire ciò che sta accadendo qui. Kate, tu te ne intendi più di me, vuoi dirglielo tu? La ragazzina parlò con la bocca piena. Ormai aveva divorato tutta la salsiccia nel piatto e anche un bel po' di fagioli. No, signor Shep, no, ho bevuto della birra e sono un po' ubriaca, mi confonderei. Va bene, ci penso io. Daniel Shep riportò l'attenzione su Pantera che masticava attento. Fino a poco tempo fa qui il minatore era una specie di libero professionista. Di norma veniva dall'Inghilterra o dal Galles, è il caso dei miei genitori, e conosceva l'antracite come le sue tasche. Non era pagato a ore, ma a quantità di carbone estratto. Ciò voleva dire che cominciava a lavorare all'alba, ma molto spesso, nelle prime ore del pomeriggio, aveva guadagnato abbastanza ed era libero. «State parlando al passato», osservò Pantera. «Come mai?» «Lo capirete dopo. Adesso lasciate che vi completi il quadro di come stavano le cose in questa parte della Pennsylvania». Shep si interruppe per ingurgitare in un solo sorso il resto del boccale e fece cenno a Bird di portarne un altro. I minatori godevano di un relativo benessere, ciò consentiva loro, e in parte consente ancora, di ingaggiare dei manovali per i lavori più pesanti, tipo lo scavo dove lo scisto è più duro, il trasporto dell'antracite in superficie, la sistemazione delle travi di sostegno, una specie di subappalto, con i manovali pagati direttamente dai minatori, questa volta ad ore. Suppongo dalle vostre parole che i manovali siano in maggioranza irlandesi. Esatto! Ci arrivano dalla loro isola senza alcuna specializzazione, visto che vengono direttamente dalle campagne. Quello che li spinge a emigrare è la carestia, non la volontà di migliorarsi. È logico che tocchino a loro i compiti più duri, ma credete che ci siano grati delle possibilità che gli offriamo di sfamare se stessi e le loro famiglie? No? Per nulla! Sono turbolenti, rissosi e indisciplinati. E quando hanno qualche centesimo in tasca bevono come spugna. E se non li hanno si danno al crimine. Sapete quanti sorveglianti di miniere sono stati uccisi dalla fine della guerra civile ad oggi? No, non lo so, quanti? Shep si guardò attorno, ma soprattutto osservò Kate che finiva i suoi fagioli. Beh, vi informeranno ascenando A, disse rapido. Non preoccupatevi per il biglietto. Prendete un qualsiasi convoglio della Reading Railroad, cambierete a Landford, al controllore direte che siete della Pinkerton. Basterà. Patera inarcò un sopracciglio. Non dico niente a nessuno, certi lavori si fanno in incognito. Sì, avete ragione. Shep sorrise e frugò nel taschino del panciotto. Ne trasse un paio di banconote che porse al messicano. Il viaggio ve lo paga il comitato dei vigilanti di Tamaka. A Shenandoah troverete qualcuno ad attendervi. Buona fortuna. Detto questo, Shep si alzò in piedi, portò due dita alla fronte, come per sollevare il cappello inesistente, e sorrise di nuovo, prima a Kate e poi a Pantera. Quindi si diresse al banco, dove fu inghiottito da un capannello di amici. Pantera rimase con le banconote tra le dita. Osservò l'ultimo pezzo di salsiccia che gli era rimasto nel piatto e lasciò cadere la forchetta. «Se hai finito possiamo andare», disse a Kate. «Immagino che non ci siano treni fino a domenica. Devo trovare un posto tranquillo dove passare la notte». La ragazza, levandosi, gettò sulle spalle la giacca. «Non ho stanze da offrirti. Nel cortile dove vado di solito con i clienti c'è una capanna con un materasso. Ma non ti piacerebbe? È pieno di topi come le miniere. Secondo me escono da là. Mi piacerà. Ai topi sono abituato. Con quattro zampe o anche a quelli con due. Vieni». Appena furono fuori nella strada deserta e imbiancata dalla luna, Pantera porse a Kate i dollari che continuava a stringere in mano. «Sono per te, a me non servono». La ragazza afferrò le banconote con un gesto tanto rapido che quasi gli graffiò le dita del messicano. Sul visetto infantile riapparve un'espressione inedita, un po' selvaggia e un po' maliziosa, ma con un fondo tenue di ritrosia. «Grazie, adesso hai diritto a un bel premio. Non badare alla mia età, sono esperta». Si portò la mano libera al petto, invisibile sotto la giacca pesante. «Dopo». Pantera esaminò gli incroci delle strade spettrali e deserte. «Prima di venire da te devo passare dalla Columbia House. Mi ci porti? Seguimi». Kate prese la mano di Pantera e lo trascinò via dalle bicocche fino a dove iniziavano le case in mattoni. Poi si mise al fianco, sempre intrecciando le dita alle sue. L'intenzione di Pantera era di parlare in privato con Jim Carroll, ma non sapeva bene come fare. Impossibile mostrarsi in pubblico, impossibile anche mettersi in contatto con Molly, dopo la pantomima di qualche ora prima. Eppure tutto sembrava miracolosamente filare liscio, malgrado le difficoltà e gli incidenti. Ciò lo innervosiva. Detestava le situazioni sottratte al suo controllo. Quando passò davanti alla chiesa di Padre Walsh, in West Broad Street, ebbe il pretesto per distrarsi da quelle inquietudini. Tamaka era vuota e fredda, tanto che la sabbia, bianca sotto la luna come neve, faceva pensare a un paesaggio invernale. Fino a quel momento Kate Boyle era stata zitta e si era limitata ad aggrapparsi alla sua mano, guidandolo con lievi pressioni. Pantera spiò il profilo regolare e morbido della ragazzina. «Credi in Dio?» le domandò. «Oh sì, certamente, sono cattolica, e tu? Frequenti le funzioni?» Malgrado la scarsa luminosità, Pantera notò che Kate si era imbronciata. «Se fosse per me le frequenterei, il prete però non mi vuole. Non vuole nemmeno un buon numero di noi irlandesi, pur essendo irlandese anche lui. Ci considera tutti dei Molly Magrish». Era la prima volta che Pantera sentiva quella denominazione. la collegò a qualcosa che aveva udito ma non ricordava. Molly cosa? Megurish. Kate aveva abbassato la voce. Sono quelli che deragliano i treni e ammazzano i sorveglianti delle miniere, tutti irlandesi e manovali, meglio non parlarne. Ah, eccone uno. L'ultima frase, pronunciata con voce squillante e in perfetta contraddizione con ciò che la giovane aveva detto un minuto prima, fece trassalire il messicano. Un Molly Maguire. Ma no, stupido, ridacchiò la ragazza. Un irlandese, non proprio un manovale. Credo che sia piuttosto un ingegnere. Avevano raggiunto il lato della Columbia House che dava su Broad Street, illuminato ma silenzioso. Presso l'albergo si teneva un po' in ombra un uomo basso e curvo. Quando scorse i nuovi venuti camminò dritto verso di loro. Zoppicava leggermente. «È un sacco di tempo che vi aspetto», disse a Kate in tono di leggero rimprovero. Poi si rivolse a Pantera e gli porse la mano. «Salve, mi chiamo Thomas Duffy. Jim mi ha messo qui per intercettarvi, sapeva che sareste arrivato». Di norma Pantera non stringeva mani altrui. Il gesto di Duffy fu però tanto franco e diretto che non riuscì a sottrarvisi. Strinse dita grassocce e pelose che il freddo aveva già ghiacciato. I'm Allora, questi erano Teenager in Tokyo, il brano End It Tonight. Diamo la prima notizia di Contrainfo. Praticamente si è venuto a sapere che nella notte tra il 5 e 6 febbraio verrà scritto in solidarietà con Marco Kamenich contro la Notav, la ZAD, in solidarietà con Villa Malias, contro il voto, per Brescia, contro la guerra. Sono state fatte tra Cremona e Provincia. Dopo una notte di passeggiate con i punti del potere, sono stati tratti in arresto due compagni, ci sono state perquisizioni di abitazioni di vari compagni, poi e i due compagni poi che sono stati beccati sono stati portati in carcere, dove hanno passato una notte, e il giorno dopo sono usciti, almeno da quando si legge, dalla stampa, quella stampa nazionale. Sono usciti praticamente il giorno dopo. I due compagni sarebbero stati rilasciati il 7, quindi con accuse di detenzione di esplosivo e attentato con finalità eversive. A detta della stampa, i due compagni sono stati arrestati mentre posizionavano un petardo legato a due barattoli di vernice davanti alla banca di Piacenza a Cremona. Sembra la stessa stampa, poi si viene a sapere che il 7 febbraio sono state rilasciate delle scritte in solidarietà con Marco Kamenich davanti alla sede della Helvetia Assicurazione a San Bassano. Quindi le iniziative per Marco continuano. Io lo ricordo anche che venerdì questo, il 15, ci sarà un'iniziativa qui a Napoli, alla Mezza Occupata, su Marco Kamenich, ci sarà la mostra su Marco, quella messa a disposizione dai compagni di Alpi Occidentali, poi ci sarà una discussione su Marco, un po' sulle tematiche anche che stanno a cuore al compagno, e poi dopo una cena benefit pro detenuti. Ora ci ascoltiamo un altro brano, Three Love Pool, loro sono Three Love Pool, e il brano è Green to Red. We'll be right back. for the truth. He sits right in front of you, a drummer of black or blue. And he tells you something. Cavate proprio me. Sì, rispose Daffy, e ritrasse immediatamente la mano e la infilò in una tasca delle brache. Aveva una sciarpa al collo su una giacca grigia di fustagno abbottonata fino al mento. Barba bionda e baffi neri creavano sul suo viso scavato un curioso contrasto. Avrete già capito che l'impiegato del telegrafo è dei nostri, la conferma il messaggio di Shep, parte da qua. Dei vostri? Che intendete con vostri? Daffy fece un mezzo sorriso. Beh, diciamo gli ibernici. Vi va? Non attese risposta e tornò a serrare le labbra. State per andare a Shenando A. È un covo di fratelli, ma anche di spie. Là, forse, c'è l'uomo che dovete uccidere. Prendete il treno che parte qui da domattina alle 6. Ci troverete un certo James Kerrigan. Fidatevi di lui. Se sono vivo è perché non mi fido di nessuno. Il sorriso di Daffy si allargò. Beh, in questo caso fatelo. Avete dove dormire stanotte? Lo porto a dormire da me, disse Kate, e si aggrappò al braccio di Pantera, quasi temesse che l'altro volesse strapparle il nuovo amico. Va bene, e Daffy fece l'occhiolino. Vedi di non stancarlo troppo, domattina deve svegliarsi presto. Salutò con la mano e si incamminò verso la Columbia House. Mentre tornava con Kate lungo Broad Street, Pantera sollevò lo sguardo. La luna si era spostata di molto e illuminava file di colline nude e regolari. Non era abitudine del messicano prestare attenzione al paesaggio, ma ciò che vide lo colpì. «Che squallore!» commentò a mezza voce. «Tamaca è brutta, ma le zone attorno sono peggio». «Non era così una volta», protestò Kate. Lo fece con la veemenza di chi ama davvero la terra in cui abita. Quando ero piccolina c'erano un sacco di alberi a Tamaka e attorno. Poi è cambiato tutto. Il fatto è che le miniere scaricano il carbone di scarto in montagne che diventano sempre più alte. Adesso ci si sale con le locomotive. E l'antracite rotola a valle, colora lo Skyscale, il Lying e gli altri fiumi. Pian piano queste contee stanno diventando nere. Non ci sono più pesci, non ci sono più piante, solo antracite. E questo ti rattrista, sì, perché diventano neri non solo i monti, ma anche gli uomini. Pantera meditò in silenzio su quell'immagine. Avrebbe voluto porre alla ragazzina una quantità di domande sullo sciopero, sulla Coal and Iron Police, sui personaggi che aveva incrociato e su quel Gowen che aveva udito tanto spesso citare. Ma vi rinunziò. Kate non era l'interlocutrice giusta. Poi lui preferiva scoprire le cose da solo. A poco, soltanto così riusciva a immergersi in un ambiente fino a dominare. Quando raggiunsero la baracca della Giuma in un cortile ingombro di rifiuti circondato da case in legno, alcuni topi ne fuggirono. Kate non gli fece caso. Entrò nella capannuccia. Da essa, un istante dopo, filtrò il barlume di una lampada a petrolio. Vieni dentro, non fa caldo, lo so, ma è meglio che fuori. Pantera, per entrare, dovette chinarsi e all'interno della piccola baracca trovò meno solido di quanto si fosse aspettato. Un tavolino addossato alla parete, coperto da una tovaglia a fiori, un materasso a due spanne dal suolo, rivestito di azzurro con un largo cuscino, paglia sparsa al suolo. Dal lume, sospeso al soffitto, pendeva un nastro argentato. Una maglia senza sportello celava una tazza e una pagnotta per d'astra, forse vecchia di giorni. C'era persino un quadretto. Pantera si avvicinò per osservarlo. «Ma guarda», disse. «Come si chiama il rametto che è appeso alla cornice? Che pianta è? L'ho vista proprio ieri per la prima volta». «Vischio, non cresce qui. O se cresce nessuno gli bada, però cresce in Irlanda». «Anche l'immagine è strana». Pantera accostò il naso al ritratto, fosse dipinto a olio. «Sembra un uomo basso, con sette dita per mano, ha i capelli di tre colori. Che cos'è? Un demone?» «No, è un eroe irlandese che si chiama Cuchulain. Agli altri sembra un mostro, ma a noi no. Io ne so poco, però la gente di qua lo considera un vendicatore. È venerato quasi come San Patrizio». «Venerato? Non so mica se la Chiesa Cattolica apprezzerebbe questo tipo di devozione». Non ci fu risposta. Quando Pantera si girò, scoprì che Kate si era liberata della giacca e l'aveva lasciata cadere su un materasso. Si era arrotolata fino alle ascelle la camicia che portava sotto e mostrava due seni piccoli e puntuti, ma già pieni. Sul torace aveva tracce di sporco. «Devo guadagnarmi i soldi che mi hai dato», disse la ragazzina molto seria. Subito dopo atteggiò il viso una malizia che non si capiva se vera o fasulla. «Vieni, te lo prendo in bocca, è la cosa che so fare meglio, agli uomini di qua piace molto». Pantera non provò alcun tipo di eccitazione. Le dita enfiate e rossicce di Kate, strette sull'orlo della camicia, bastavano a smontarlo. Tuttavia le afferrò i seni e li palpò in modo delicato. Giocherellò anche con i capezzoli ritti e poi la lasciò. «Sei molto attraente, però devo dormire», disse mentre esaminava il materasso. Temeva che sotto ci fossero altri topi. «Ma facciamo in fretta», obiettò Kate. Pantera ebbe un sogghigno involontario. «Ciò non rende la cosa più allettante, non trovi?» Serrò le labbra. «Spegni la lampada e cerca di non venirmi addosso stanotte, non lo sopporto». Capì di essere stato troppo duro e aggiunse: «Piccola». Si gettò vestito sul materasso e attese la testa affondata in un bordo del cuscino. Vide con occhi socchiusi che Kate si abbassava la camicia e spegneva la lampada. Avvertì il materasso che si affossava di un poco sotto il peso di lei. Poi l'ebbe accanto e ne sentì il respiro, profumato. In fondo non se lo sarebbe atteso. Chiuse gli occhi. «Ho capito che ci sono due specie di uomini», sussurrò dopo qualche istante la ragazzina. «Quelli che vogliono anzitutto il mio petto sono buoni. Quelli che non ci badano nemmeno sono i cattivi. I più qui puntano a quello che ho tra le gambe e basta». Pantera si guardò dal rispondere. Stava sistemando la rivoltella sul ventre in modo che non lo infastidisse nel sonno. «Cerca di dormire». «Sì, ma prima dimmi che cosa ne pensi della mia teoria, è importante». Pantera sbuffò. «Io non sono un uomo buono. Infatti se pronunci un'altra parola ti strozzo, capito?» Attese per qualche istante, ma Kate non aggiunse nulla. Allora si girò di lato e si rilassò. La rivoltella gli pesava, ma poco. Si addormentò quasi subito, contrariamente a quanto si aspettava. Non fece sogni degni di essere ricordati, a parte quello di un topo che corriva al lato del fiume Skyskill. Nulla di importante, però. Si svegliò al primo chiarore che entrò nella baracca. Pantera non sapeva che ora fosse, ma doveva essere abbastanza presto. Faceva molto freddo. Kate era un gomitolo arruffato sul lato del materasso. Si alzò con cautela per non disturbarla. Non era nemmeno l'alba, ma la si intuiva prossima. Il cielo era già chiaro, anche senza il sole. Il freddo era pungente. Pantera trovò tra le case una fontana di acqua diaccia, alla quale si lavò sommariamente le mani e il viso. Proseguì verso la stazione ferroviaria. Fu facile. L'intero disegno urbanistico di Tamaka la portava là. Mentre procedeva tra edifici scuriti da un cielo che proiettavano più ombre che luci, il messicano si interrogò sui prossimi passi da fare. Inutile. Lui stesso non sapeva dove lo stesse conducendo quell'avventura. le conseguenze del dovere interpretare un ruolo di spia per scovare e uccidere altre spie erano imprevedibili. Il viaggio era di essere gradito da ambedue le parti in lotta. Lo svantaggio di essere esposto a qualsiasi tradimento. Il fatto è che con i contendenti non li conosceva ancora bene. Sì, l'antico ordine degli Ibernici, la Working Men's Benevolent Association, i misteriosi Molly Magurish, gli scioperanti da un lato, i vigilantes della Coal and Iron Police e presumibilmente i padroni di miniere e ferrovie, tra cui sempre il citato Gowen, dall'altro. Ma non sapeva ancora quali fossero i termini esatti del confronto e i conflitti interni a ciascun schieramento. Però si era ripromesso di fare domande il meno possibile e avrebbe rispettato quell'impegno con se stesso. Era ormai vicino alla stazione quando una scena singolare attrasse la sua attenzione. Sebbene l'alba fosse spuntata da poco, un uomo vestito di stracci era affacciato lungo il breve declivio che dai binari conduceva al fiume. Aveva ai propri piedi la carcassa di un cavallo bianco coperta di rami secchi. Dalla torcia accesa che reggeva in mano risultava evidente che cercava di dar fuoco alle spoglie dell'animale. Senza troppo successo. Uno strato leggero di brina, insolito per la stagione, copriva ogni cosa, inclusi i rametti e il pellame opaco della bestia. Pantera si arrestò sul bordo di un binario a osservare la scena. Dopo qualche istante l'uomo malvestito si accorse di lui. Aveva un viso scarno e disperato. «Mio solo cavallo, triste bruciarlo, preferirei bruciare me stesso!» L'accento era sicuramente tedesco. I capelli biondi, scompigliati e radi confermavano l'impressione di una povertà estrema. Pantera abbozzò un generico cenno di comprensione. «Capisco, Metti, ma è proprio necessario dargli fuoco?» «Oh, sì!» L'uomo aveva le lacrime agli occhi. «Brutta malattia, malattia di carbone!» Il messicano non capì di primo acchitto, poi alcune immagini di bovini abbattuti all'arredo gli tornarono in mente. «Il tuo cavallo è morto di carbonchio, di antrace!» «Ya, ya!» Il tedesco indicò le colline nere che circondavano il letto del fiume Schoeskill. «Qui carbone dappertutto, entra anche nelle bestie, verdammt!» «Dopo muoiono, si coprono di carbone!» «Ma il carbonchio, malgrado il nome, non è provocato dal carbone, per quanto ne so, si trasmette attraverso...» Il tedesco gesticolò con foga. «Cavalli con il carbone addosso, uomini anche! Io ho letto Powows di Homan!» «Niente da fare, nessuno salvarsi!» Pantera notò che il tedesco aveva un filo di bava che gli scendeva lungo il mento e gli occhi azzurri erano dilatati. «Un matto», pensò. Gli rivolse un vago cenno di saluto e riprese il cammino verso la stazione. Udì l'altro urlare qualcosa, ma era nella sua lingua gutturale. Il messicano non capì neanche una parola. Forse non valeva nemmeno la pena di capire, concluse fra sé. Però si sarebbe informato sul libro intitolato Powows appena ne avesse trovato il tempo e l'occasione. Davanti alla stazione, molto ampia ed elegante per un abitato di modesta estensione, solo una delle molte locomotive in sosta, che recava sulla fiancata il numero 406, emanava qualche sbuffo di fumo. Non era detto che fosse la sua, visto che mancava almeno un'ora alla partenza. Tuttavia era l'unica unita a carrozze passeggeri, due in tutto, e in buono stato. Sul carrello del carbone spiccava la scritta gialla «The Reading Railroad». Si vedevano un macchinista e un frenatore curvi sui comandi della cabina. Un inserviente negro con una sciarpa al collo e una scopa in mano stava terminando la pulizia dei vagoni. Pantera si diresse al portico di legno antistante la stazione, spinse una porta a vetri dalle lastre tutte spezzate e cercò con lo sguardo la biglietteria. L'addetto stava entrando nel suo bugigattolo in quel momento, intabarrato fino al collo, ma già col berretto impiegatizio sul capo. Un uomo, avvolto in un mantello nero, col gomito poggiato sull'orlo dello sportello, pareva attendere che l'altro assumesse le sue funzioni. Pantera si avvicinò sospettoso, traversando una sala gelida e deserta. Occhi altrettanto sospettosi incrociarono i suoi. Fu certo che l'uomo che aveva di fronte fosse James Kerrigan. «Salve», mormorò il messicano accennando a mettersi in fila. Il presunto Kerrigan si girò del tutto e sporse l'addome. «Salve», rispose senza entusiasmo. Quindi si volse a guardare l'impiegato che intanto si era sistemato sul proprio sgabello. Un biglietto per Shenandoah, via Manoai City. Uno anche per me, disse Pantera. L'uomo col mantello tornò a fissarlo. Dunque, siete voi? Sì, sono io. Pantera trovò il viso di Kerrigan estremamente spiacevole. Fronte molto bassa, occhi neri piccolissimi, colorito pallido, orecchie troppo larghe. La barba era una striscia di peli scuri che scendeva dal labbro superiore lungo il centro del mento, fino a unirsi a un collare di vello corto pendente sotto la mascella. Non era un taglio insolito, ma era tipico delle classi agiate. Anomalo su un volto tanto angoloso e stolido. I baffi, invece, erano normali e tendevano al biondo. La bocca non la si vedeva per niente. L'impiegato stava timbrando due strisce di carta. Ecco il tuo biglietto, Pav the Keg. Ecco il vostro, signore. Non mi dovete niente, il viaggio è pagato. Niente? Chiese Kerrigan un po' stupito. Ne sei sicuro? Sì. Il bigliettaio sorrise e con l'indice sinistro toccò per un attimo la narice destra. Vado a telegrafare che state per partire, buon viaggio. Pantera non si era accorto che un angolo dello sgabuzzino dell'impiegato ospitava un telegrafo, quasi nascosto da un fascio di fogli e di appunti. Capì che il falso telegramma della Pinkerton a Shep doveva essere stato redatto lì. I bernici sembravano più potenti di quanto avesse supposto. Uscì all'esterno in compagnia di Kerrigan. La locomotiva era ancora in fase di controllo e sbuffava piano. Dietro le colline nere stavano apparendo i primi raggi di un sole molto pallido che cercava di scavalcarne le sommità. Si scorgevano distintamente gli assurdi e sproporzionati edifici minerari disseminati su ogni rilievo. Banchi di bruma fluttuavano contro le pareti ancora scure del cielo. «Anche tu puoi chiamarmi Powder Keg», annunciò Kerrigan, senza un briciolo di cordialità nella voce roca. «E io come devo chiamarti, messicano?» Chiamo in messicano se vuoi, il mio nome vero non lo sapresti pronunciare comunque bene. In quel momento uno dei casamenti sulla collina giunse il suono attutito di una sirena. Altre sirene fischiarono qua e là per la valle. Alla fine divenne una cacofonia lacerante, da alcune ciminiere si innalzavano esalazioni nerastre, ancora filiformi. Kerrigan scoprì i denti grossi e ingialliti. Lo sciopero è finito, adesso tocca a noi. E sembrava soddisfatto. You wanna join? You have my room, babe. Praticamente sono due cose effettivamente diverse, me l'aveva fatto notare anche una compagna, la cinta bambina, mi aveva fatto notare questa cosa, infatti volevo spiegare pure che Locker cos'era, solo che poi non c'era stato più tempo e se la finita la. Allora, ripetiamo da capo perché. Allora, si spiega la nuova microspia, il keylogger, stiamo facendo un po' di macelli con i microfoni oggi perché uno non funziona, ci siamo messi i microfoni per Marcello. Allora, ripeto, il keylogger, questa nuova microspia, è praticamente un keylogger nel campo dell'informatica, è uno strumento in grado di intercettare tutto ciò che un utente digita sulla tastiera del proprio o di un altro computer. I keylogger hardware sono molto efficaci in quanto la loro installazione è molto semplice e il sistema non è in grado di accorgersi della loro presenza. Quando vengono installati tra tastiera e PC hanno la sembianza di un adattatore e appaiono dei cavi di prolunga, questo più alto quando si tratta di un computer fisso. Quando sono nascosti nella tastiera risultano del tutto invisibili. Il vantaggio dei keylogger hardware risiede nel fatto che sono completamente indipendenti dal sistema operativo o sono in grado di intercettare anche le password di Bootstrap. Questi keylogger memorizzano i tasti premuti e li inviano a dispositivi wireless. Un'altra microspia, sempre a livello un pochino più informatico, è la telecamera IP. Sistema di trasmissione video basato su tecnologia IP. Il sistema di trasmissione video IP SNEC Camera utilizza la rete IP per trasmettere le immagini video via LAN, via internet o intranet, quindi occhio alla webcam del vostro PC. Ora continuiamo la lettura del libro e poi dopo musica e poi ne raccontiamo un'altra. E quando troviamo questa spazzatura, bruciamola. Ridurla in immondizia. La prima cosa è bruciarla e poi nell'immondizia. Che nell'immondizia la possono recuperare. Forse loro che sono avvezzi. Sì. Fumf 5. Primo sangue. Kerrigan non era il compagno di viaggio ideale. Si addormentò non appena la locomotiva si mise in moto e subito cominciò a russare sonoramente. Pantera, che avrebbe voluto interrogarlo con cautela, pagone, sporco e traballante, non ospitava altri passeggeri. Del controllore non c'era traccia. Si sarebbe detto che a bordo del treno non ci fossero che loro due, oltre che presumibilmente il macchinista, fuochista e l'eventuale frenatore. Ciò che dava al viaggio un sapore spettrale, confermato dalle panoramiche sconvolte oltre il finestrino, era che non tutte le colline erano nere come attorno a Tamaqua. Su alcuni limiti di installazioni minerarie l'erba era folta e la boscaglia fitta. Anche in quei punti però la tonalità verde chiaro era resa opaca dalle strisce di fumo che percorrevano il cielo sottili e sfrangiate, oppure agglomerate in nubi o nere. Non c'era una ciminiera che non fumasse lungo le valli che il treno attraversava. Neanche l'acqua dei molti canali artificiali ne risultava scurita. Era palese che in tutta la contea minatori operai avevano ripreso il lavoro. Fecero sosta a Manoe City, ma anche in quella città di dimensioni medie e quasi tutta in legno non salì nessuno. Fu solo dopo che l'ebbero distanziata di un bel tratto che Kerrigan si svegliò. «Dove siamo?» chiese mentre si raddrizzava di scatto sul sedile foderato di rosso. «Abbiamo lasciato Manoe City da meno di 15 minuti». Kerrigan trasse da sotto il mantello un orologio da tasca. Aveva il vetro incrinato, ma cassa e catena sembravano d'oro. Pantera notò dietro le pieghe del tabarro un tratto di cinturone, di quei ridale asole larghe, atte a ospitare interi tamburi caricarichi. Ne arguì che l'uomo doveva avere su di sé una di quelle colta capsula, polvere e palla dei tempi della guerra civile, magari una Navy o una Dragoon, roba ormai da professionisti. Li aveva portati anche lui e le rimpiangeva. Siamo quasi a Showmaker's Patch, disse Kerrigan mentre riponeva l'orologio. Si scende. Credevo che la prossima stazione fosse scenando A. Lo è, ma tu ti fermi a Showmaker's Patch, seguimi e preparati a saltare. Pantera non era abituato a prendere ordini e men che mai a obbedirli. Tuttavia non ritenne opportuno ribellarsi, anche se si ripromise di far pagare a Kerrigan la sua arroganza. Certo, alla prima occasione utile. Gli andò dietro lungo la carrozza fino al terrazzino della ringhiera di ferro sotto il quale i binari correvano veloci. Il treno filava ad andatura moderata e l'aria che li sferzava non era troppo impetuosa. Kerrigan osservò la campagna livida che attraversavano, poi tornò a consultare l'orologio. Ancora pochi minuti ci siamo. Il treno rallenterà. A terra troverai John Morris che ti aspetta. Conclusa la missione, ti farà prendere il treno successivo e arrivare a Shenandoah. Domande? Anche troppe, rispose Pantera storcendo le labbra. Per cui non te ne faccio. Bravo! Negli occhi piccoli e tondi di Kerrigan balenò per la prima volta un barlume di cordialità. Te ne faccio una io. Che giorno è oggi? Beh, è il 28 giugno. Segnati questa data. Stai per entrare al servizio dei Mollies. Il treno si infilò tra due colline irte di arbusti, il tratto era in curva e si udirono i freni scivolare, l'andatura rallentò di parecchio. Kerrigan spinse Pantera verso la scaletta, sospesa al terrazzino. Ecco, è il momento. Salta, salta! Il messicano scese fino all'ultimo gradino di metallo, poi diede un colpo di talloni, atterrò tra i cespugli abbarbicati al terreno sabbioso, cercò di mantenersi ritto mentre in piedi i piedi gli scivolavano. Fu solo grazie a pochi arbusti afferrati con forza che riuscì a evitare una caduta rovinosa. Appena si fu risollevato, si trovò di fronte la faccia ridente e biancastra di uno spettro. John Morris, presumo, mormorò. Lo spettro gli rispose con una risata cordiale. Proprio io, non sei nemmeno troppo ammaccato. Di che ti lamenti? Pantera afferrò la mano ruvida che gli veniva porta. La strinse finché non ebbe la certezza di aver recuperato il pieno equilibrio. Solo allora osservò con cura l'interlocutore. Morris era una specie di gigante, ma col viso di un fantasma. Non perché fosse ossuto, anche se un po' lo era. L'impressione era data dalla tintura bianca spalmata sugli zigomi, sul naso largo e camuso e attorno alla bocca. Anche le labbra, anche la barba folta era imbrattata di calce o di vernice. «Perché questa mascherata? Mica siamo a carnevale!» chiese Pantera diffidente. «Il nostro uomo deve sapere che sono i Mollies a giustiziarlo. In Irlanda ci si vestiva da donna, qui la faccia bianca è sufficiente». Non sperare che mi mascheri anch'io. Non lo spero, basta che Bally Bid veda me. Del resto, anche Harley e Gibbons si sono tinti la faccia di bianco. Tu devi solo sparare. Morris voltò le spalle al messicano, ma un attimo dopo tornò a girarsi. Ce l'hai una pistola, è vero? Ce l'ho. È anche già carica. Allora vieni. Showmaker's Patch è giusto dietro la collina. Non c'erano sentieri, ma solo tratti di sottobosco liberi da alberi e cespugli. La marcia non fu tanto breve e i sassi e le rocce la rendevano faticosa. Pantera aveva già capito cosa gli si chiedeva. Non intendeva ribellarsi né fare troppe domande. Era evidente che lo stavano sottoponendo ad una prova. Esprimere dubbi o resistenze avrebbe potuto farla fallire. Aggirata la collina, poterono vedere un abitato disordinato e triste, addossato ad un rilievo. Una trentina di baracche, lenzuoli stesi ad asciugare, cartoni al posto dei vetri, scale rudimentali univano i vari livelli dell'insediamento. Per capire come e perché fosse nato, bastava sollevare lo sguardo. In cima al poggio svettava una grossa ciminiera fumante e si scorgevano i tetti di un breaker. La miniera aveva radunato i propri piedi e le braccia che servivano al momento disperse nei suoi meandri. I segni di vita del Patch erano pochi. 5 o 6 bambini piccolissimi che si rincorrevano tra i rifiuti di un cortile, un uomo tarchiato che cercava di far uscire una coppia di muli da una stalla, 2 donne anziane che tastavano i panni per vedere se fossero forse già asciutti. Nel villaggio c'era silenzio, ma dall'alto giungeva l'eco di cigolii acutissimi e di schianti ripetuti. C'era da presumere che sull'altro versante del colle i fragori fossero assordanti. Morris e Pantera avevano quasi raggiunto un canale traversato da una passerella, mezzo invaso da una vegetazione grigiastra ed esuberante, quando 2 individui della faccia dipinta di bianco spuntarono da dietro i tronchi di alcuni olmi americani. Sembravano robusti e vestivano pastrani lunghi fino ai piedi. Uno dei 2, il più alto, indicò la stalla. «Lo vedete? È là il porco! Da quando ha sparato a Dougherty non lo fanno scendere in miniera». «Pare un bersaglio facile», commentò Morris. «Attorno non c'è quasi nessuno». Il secondo dei 9 venuti, il più basso e tarchiato, stava squadrando Pantera. «È lui quello che deve seguire il lavoro? Sembra un messicano». Nulla di meglio di un messicano per far fuori un dannato gallese», rise Morris. «Facciamo in fretta, c'è il rischio che Bally Bill Thomas torni dentro la stalla». Attraversarono una passerella quasi di corsa, parzialmente riparati da una sventagliata di betulle stente. Quando furono al di là del canale, Pantera estrasse la Smith & Wesson. Morris, alla vista dell'arma, soffocò un fischio ammirato. Però si limitò a dire: «Andiamo avanti noi, tu vienici dietro, ma nascondi il ferro. Appena quello tenta di fuggire, fallo secco». Bally Bill era così impegnato con i suoi nudi che si accorse di uomini dalla faccia bianca solo quando furono a pochi passi. Diventò di colpo più bianco di loro. Tremava, tanto che i pantaloni larghi gli scivolarono per un buon palmo lungo le anche. «Stai perdendo le brache, Bill Thomas!» Morris era divertito e cordiale. «Ti consiglio la prossima volta, ma non ce ne sarà, un buon paio di bretelle!» L'interpellato fu costretto a deglutire più volte prima di riuscire a balbettare. «Non sono stato io! Sono stati i fratelli Mayor! I Modox non c'entrano!» Morris finse di guardare l'orologio. Si consultò con uno dei complici dal viso imbiancato. «I fratelli Mayor! A quell'ora dovrebbero essere morti, non è vero, John?» L'altro annuiva con gravità. «Penso proprio di sì, nessuno sfugge alla legge dei Molly Magrish». «Allora temo proprio che sia giunta la tua ora, Bally Pitt. Adesso cerca di scappare se vuoi». «Ma che fai? Pisci!» Una larga chiazza scura era apparsa sui pantaloni del gallese. Forse fu la vergogna che lo indusse a tenersi la cintura e a cercare di fuggire goffamente. La semplice paura lo avrebbe soltanto paralizzato. Morris si girò verso Pantera. «È il tuo momento, straniero!» «Un solo colpo. Adesso. Per favore!» Pantera aveva già il braccio teso e lo sguardo sull'incavo del mirino. Ragionò in modo fulmineo. Normalmente non uccideva sconosciuti di cui non sapeva la colpa. L'importante era che quel tizio sembrasse morto. Premette il grilletto. Bally Bill piroettò come una trottola, tenendosi il petto dove la pallottola penetrata nella schiena era uscita, poi sbatté la faccia sull'erba. La donna che stendeva i panni gridò. I bambini smisero di giocare. Una macchia di sangue si allargava sotto il corpo del caduto, ora immobile. Nell'aria rimasero solo gli ansiti e i cigolii delle macchine sopra la collina. «Fatto», disse Pantera. «Volete che gli spari anche alla nuca?» Poiché la risposta non veniva, soffiò via il fumo che usciva dalla canna della Smith & Wesson e ricollocò il revolver nella cintura. Scottava un poco. Leggermente inebetito, Morris si riscosse. No, è morto, dobbiamo tornare alla ferrovia». Se ne andarono in silenzio, ma non troppo in fretta. Raggiunto il canale, Morris e i compagni si inginocchiarono sotto le betulle a lavarsi la faccia. Harley e Gibbons avevano visi aperti, piacevoli, illuminati da occhi onesti, il contrario delle larve sinistre che erano poco prima. Tutti e tre i Mollis mostravano lineamenti più rassicuranti di quelli di un Kerrigan. La pelle, spessa ma pallida, recava l'impronta della miniera. Drop Dead. Allora, continuiamo con una notizia di Contra Info. Si parla di Marco, abbiamo detto prima, dell'iniziativa che si terrà venerdì prossimo a Napoli, alla mente occupata. Chi vuole esserci dalle 18.30 ci sarà la mostra, la discussione e poi la cena benefit per i detenuti. Adesso, diciamo, un'informazione proprio Per quanto riguarda Marco, praticamente era nell'area, era tutto visto e tutto scritto, lo stesso Marco ne aveva avuto il pretendimento e il suo ultimo scritto. Ancora una volta la richiesta della liberazione di Marco è stata respinta dalla giustizia elvetica. Marco non ha mai chinato la testa in questi tantissimi anni di detenzione, non ha mai voluto abbandonare la sua idea, i suoi compagni e la sua determinazione. Questo è uno smacco pesante per una nazione come la Svizzera, che si è sempre dichiarata neutrale mentre si arricchiva più tanto nelle sue banche i capitali italiani e tedeschi della seconda guerra mondiale, i capitali dei politici e industriali italiani e non solo, e quindi delle mafie italiane. Si potrebbe andare avanti, ma a noi non interessa denunciare i loro lotti affari, quindi vanno attaccati attraverso l'azione diretta. A noi deve interessare che Marco venga fuori al più presto possibile da quel lager, come Marco tutti i detenuti. Moltiplichiamo le iniziative in solidarietà con Marco e con tutti gli altri compagni detenuti, e sarebbe cosa buona farlo non quotidianamente ma quasi. Non lasciamo le lotte ai soli detenuti, tipo i vari scioperi della fame portati avanti dai vari compagni. Ci ricordo i scioperi a staffetta che ci sono stati a dicembre con Gabriel e Elisa, e poi continuato da Marco a gennaio. Lo sciopero che stanno facendo anche a Fredo e Nicola all'interno del carcere d'Alessandria, perché gli vengono negati i colloqui con le rispettive compagni. E non esercitiamoci davanti agli iscritti di molti compagni detenuti che hanno deciso di portare avanti una lotta radicale, che poi il risultato è lo svendolare la bandierina della solidarietà. Non esercitiamoci davanti alle lotte di tante migliaia di chilometri, che poi quando si materializzano in Italia c'è un pesante silenzio tombale. Non serve a nulla la parolina al concorso, serve la pratica. Serve che le cose che vengono scritte sulla carta o su internet o sui muri diventano la quotidianità di fatto. Solidarietà con Marco e tutti i compagni detenuti nel mondo per l'azione diretta con fatto. E questo è uno scritto che era a prima di redazione, lo potete trovare sul blog. Ora continuiamo la lettura del libro con il nuovo capitolo. E anche Pantera avrebbe sottoscritto quanto appena avete ascoltato. Ritorniamo alle colline imbrunite dal nero. Aggirata la collina e raggiunti i binari, Morris allargò le braccia. Distanziamoci. Quando il treno rallenta, salteremo uno dopo l'altro sul terrazzino dell'ultimo vagone. Aggrappatevi bene. Se uno non ce la fa, proseguirà a piedi. Shenandoah è vicinissima, gli basterà seguire la ferrovia. Ci volle circa un quarto d'ora perché i binari cominciassero a vibrare e una grossa locomotiva fumante facesse la sua apparizione tra i dossi boscosi delle alture. Pantera, che si era adagiato sotto un hitchcock, la schiena appoggiata al tronco, si mise in piedi. Era il secondo della fila. Vide Morris saltare, aggrapparsi alla ringhiera del terrazzino e farsi indietro per lasciare posto agli altri. Pantera prese lo slancio e lo imitò. Il treno procedeva così piano che non ebbe difficoltà a ritrovare l'equilibrio. Harley e Gibbons lo seguirono a ruoto. Poco dopo, tutti e quattro calmavano l'affanno sui sedili del vagone di coda. Non c'erano passeggeri, ma un controllore sì. Si affacciò, vide lo spettacolo e si ritirò nelle carrozze anteriori. Pantera ebbe l'impressione che con l'indice destro avesse sfiorato la narice sinistra. «Bravo!» disse Morris. «Pochi sparano così bene. Ti presento John Gibbons e Tom Harley, i bernici di Shenandoah, gente in gamba». I due sorrisero al messicano che li guardò appena. Cercava una domanda abbastanza futile che, senza rivelare curiosità eccessiva, inducesse gli altri a fornirgli le informazioni di cui aveva bisogno. Ne trovò una che faceva al caso. «A chi sono i Modox?» Morris sogghignò, ma non ebbe alcuna reticenza. «Una gang di gallesi. Nei nostri villaggi spesso ci si divide in bande a seconda della provenienza. I nemici naturali di noi irlandesi sono proprio i gallesi e i loro alleati tedeschi. Ballybeat e i suoi compari hanno cercato di uccidere Daniel Dougherty dopo che un tribunale l'aveva assolto dall'accusa di aver accoppato un Modoc, George Major. Il fatto era avvenuto nell'autunno scorso a Mahoney City durante gli scontri tra pompieri. Pantera stentava ad afferrare. Sì, pompieri, gallesi e tedeschi da un lato, irlandesi dall'altro. John Gibbons, che sul viso sereno e baffuto aveva un'aria riflessiva, posò la mano sul ginocchio di Morris. Così quest'uomo non capirà nulla, Joe. Qualcosa bisognerà pure che sappia. Si rivolse al messicano. Quando si parla di gallesi e di tedeschi, si parla di gente quasi ricca. Nelle miniere fanno il comodo loro, scavate abbastanza antracite se ne vanno a casa all'ora che vogliono. Tanto hanno i loro manovali irlandesi che per due soldi restano giù a scavare la roccia e a fare il carico. Tom Harley, molto più giovane e peloso, si stava accendendo un sigaro sottile, fece una smorfia di approvazione. La stessa storia che in Irlanda e Inghilterra. Gli inglesi sopra gli irlandesi sotto. Finora non avete parlato che di inglesi, detto Pantera, sollevando un sopracciglio, solo di gallesi e di tedeschi. Morris ridacchiò. Gli inglesi sono un altro discorso. Sono i padroni delle miniere. I tedeschi e i gallesi sono il loro braccio. E in fondo alla piramide chi c'è? Il buon irlandese, che se al sabato lo pagano una miseria tanto per tenerlo in vita, deve solo dire grazie. Sempre la stessa storia, ripete Harley accigliato. Espirò dalla bocca una nuvoletta di fumo. Forse cercava di farlo uscire ad anello, ma non vi riuscì. Pantera possedeva tutte le nozioni che gli servivano al momento. Solo una non collimava con quelle che già aveva. A Tamata si parlava di WBA, diretta da gallesi a quanto ho capito, però gli irlandesi vi aderivano. Fu Morris a rispondere sprezzante. Sì, ma dov'è adesso la WBA? Hai capito dove gliel'hanno messo, Gowen e gli altri? Se vuoi te lo... Guardò attraverso il finestrino e si interruppe. Dello sciopero del cazzo ti parleranno tutti, siamo a scenando A. Si scende! In effetti, i freni del treno cigolavano assordanti mentre il convoglio si avvicinava alla stazione. Pantera, attraverso il vetro, vide per la prima volta una città degna di tale nome che, fino a quel momento, aveva trovato fino a Schuylkill County. Gli edifici in mattoni prevalevano, i campanili erano almeno tre, l'estensione dell'abitato sembrava vasta. Baracche ce n'erano, però abbarbicate al consueto paesaggio collinare. La ferrovia si ramificava in molti binari e aveva edifici ben tenuti, tutti provvisti di tettoia e fiancheggiati da aiuole. Passarono persino accanto a rotaie che si inerpicavano su un poggio coperto di pini, con tanto di cartello recante le tariffe per l'escursione. Se c'erano gitanti e turisti, voleva dire che il centro era prospero. Quando i quattro uomini furono in piedi, Morris si avvicinò a Pantera. «Passa in uno dei vagoni davanti, non devi scendere insieme a noi. Magari un minuto dopo, come sai, chi ti aspetta non è dei nostri». «Sono proprio curioso di sapere chi sarà», borbottò Gibbons. «A scenando A come vi ritrovo?» richiese Pantera. «Noi non ci ritroverai», spiegò Morris. Comunque la loggia dell'ordine si riunisce al salon di Muff. Tu non li cercare. Ti cercheranno loro quando sarà il momento. Pantera fece per allontanarsi, ma Morris gli toccò la manica e sorridendo disse «Buona fortuna, amico!» Pantera tirò dritto. Negli altri vagoni che attraversò barcollando per via della lunga frenata c'erano due passeggeri in tutto. Un borghese, che toglieva dalla reticella il proprio bagaglio, e un militare, impettito, già davanti all'uscita. Quando il treno si fermò del tutto e Pantera ebbe messo i piedi a terra, non vide nessuno che avesse l'aria di attenderlo. La pensilina, sotto un sole vivido ma non estivo, appariva deserta. Pantera scorse con la coda dell'occhio Morris, Gibbons e Harley defilarsi tra i campi rapidi e furtivi. Il borghese lo urtò leggermente con la grossa valigia. Il militare, privo di bagagli, allargava le braccia come se si stesse stirando. In vista rimaneva solo un'anziana donna negra armata di scopa, un capostazione con l'occhio alla cipolla, un vetturino che sonnecchiava su una panca in attesa di clienti e due bambini molto piccoli intenti a raganellare traversine. Tutti interlocutori molto improbabili. Appena ebbe finito di stirarsi, il militare si volse verso Pantera. Dunque siete voi l'uomo che devo incontrare? Strano, quando sono salito a Mahoney City ho ispezionato le carrozze e non vi ho visto. Tra Mahoney City e Shenandoah non ci sono fermate. Pantera si costrinse a un sorrisetto. Il problema è il vostro, non mio. La gente come me si fa notare solo quando vuole. Era una risposta neutra, capace di stroncare ogni obiezione. Il militare sghignazzò, aveva basette grigie, occhi grigi, barba grigia e lunga. Tutto in lui era grigio, eccetto la divisa blu. So dei Pinkerton e della loro capacità di dissimularsi. Ora l'ho constatata con i miei occhi. Detto questo, l'uomo porse la mano. Pantera era riluttante a stringerla. Con chi ho l'onore? Chiese. Il sogghigno del militare si allargò fino a diventare un vero sorriso. Sono il capitano Bob J. Linden. Anch'io faccio parte della Pinkerton, ma sono anche a capo della Coal and Iron Police. Adesso me la vuoi stringere la mano? Questa volta Pantera si risolse a sfiorare con le proprie dita falangi della durezza e della consistenza del cuoio, irte di setole bianche. Finì col notare che la divisa di Linden differiva un poco da quella dell'esercito. Non era ornata dal distintivo della Coal and Iron e la foggia era diversa. La si sarebbe detta una vecchia uniforme nordista privata di insegne e galloni e adattata ad altro uso. Linden forse notò quell'esame, ma si mantenne cordiale. Siamo stati qui troppo a lungo, un ufficiale e un mezzo negro si notano come una cacca in un prato coperto di neve. Non sono un... Lo so, non sei un negro, altrimenti non ti parlerei. Cerchiamo un saloon di quelli neutrali dove possiamo parlare. E tu, rilassati, neutrale. Ne ho in mente uno, vieni. Pantera aveva visto giusto, Shenandoah era una vera città. Fuori alla stazione le strade erano acciottolate e i calessi la percorrevano rumorosi. Un paio di palazzi alti inquadravano file di case in mattoni, dotate di porticati regolari uniti tra loro. Dovunque insegne, un maniscalco, un cavadenti, lo sceriffo, due teatri di varietà dei nomi francesi, diversi alberghi grandi e piccoli, e una quantità di saloon. E più si inoltravano, più ne trovavano. Linden ne indicò uno. Quello fa per noi, sono tedeschi. A questo punto, obiettò Pantera, tutta la città ci ha visto e sa chi siamo. Linden scosse il capo. Non credo. Fece un gesto vago in direzione delle colline lontane. A quest'ora la gente che ci ostile lavora lassù, sottoterra. Lo sciopero è finito e se Dio vuole, fino a stasera potremo rimanere tranquilli. Pantera pensò che se gli operai erano in miniera, in città dovevano restare solo le loro donne. In effetti di donne ne vedeva, e parecchie, sulla strada e anche sotto i portici. Nessuna di esse però sembrava recare le stimmate della povertà. Gli abiti scuri visti a Tamaka qui sembravano spariti. Prevalevano le trine, le gonne di velluto o di stoffa buona, le velette. Alcune dame, raggruppate a crocchio fuori dai saloon, esibivano addirittura scollature vertiginosi e vesti sgargianti. Erano poche, ma lasciavano intuire la tolleranza a Shenandoah, di costumi più rilassati che nel resto di Skyskill County. Il padrone del saloon a cui erano diretti si chiamava Gustav. Lui si apprendeva dall'insegna sull'ingresso del locale. Appena vide Linden lo accorse con un sorriso, fece il giro del bancone per stringergli la mano. «Benvenuto, capitano!» scandì con timbro gutturale. «È un pezzo che non venite da queste parti!» Pantera non prestò attenzione al resto dei convenevoli, osservava l'ambiente, piuttosto singolare. Alle pareti non c'erano né i consueti quadri con ninfe o odalische seminude, né specchi e cartelli recanti la marca di una birra o di un whisky. C'erano invece manifesti, alcuni ingialliti, altri feschi di stampa. recavano quasi tutta la stessa intestazione, di Internationale Arbeit Association, l'associazione internazionale dei lavoratori. Seguivano righe di testo fittissime e poco leggibile. Gli unici ritratti raffiguravano uomini grassi e barbuti, dallo sguardo severo. Gustav, ci mettiamo a un tavolo, disse Linden, portaci due birre. Era un'ora insolita per bere alcolici, ma Pantera non fece obiezioni. Gli unici clienti nella sala dominata da una grande stufa spenta erano due vecchi intenti a discutere fra loro. Non parlavano inglese né tedesco, ma piuttosto una lingua che si sarebbe detta slava, forse il russo. Uno dei due portava al collo un fiocco nero che gli cadeva sulla marsina sdrucita. L'altro aveva il mento avvolto da una sciarpa, sebbene non facesse freddo e aspirava fumo da una pipa lunghissima. Con una clientela di quel tipo si capiva perché le prostitute preferissero la strada. Quando le birre arrivarono, grandi e schiumose, Linden fece l'occhiolino all'host. Gustav, adesso che nelle miniere il lavoro è ripreso, i tuoi clienti torneranno a pagarti, certamente. L'interpellato fece una smorfia mentre asciugava con l'orlo del grembiale la schiuma tracimata dai bicchieri. Pagano solo il sabato e mai tutto di una volta. Gli irlandesi spendono più di quanto guadagnano e mi danno problemi tutte le sere. Spero di trasferirmi a Filadelfia un giorno, quanto prima. Ma che dici? Parli sempre di diritti dei lavoratori. Dovresti essere contento di avere una clientela di proletari. Il tono di Linden era sardonico, ma Gustav rimase serissimo. L'ironia non doveva essere il suo forte. Nessuno dei manovali che viene qua è un socialista. Il loro ideale è avere soldi in tasca per poter bere a volontà. E questo è tutto. Vedono il mondo proprio come loro padroni. Beh, in America il socialismo non è precisamente merce corrente. Già, ma allora perché vogliono la mia solidarietà? Che crepino! Preferisco gente come voi, capitano. State dall'altra parte, però almeno capite che cos'è la lotta di classe. Quando l'osso si fu allontanato, Linden si rivolse a Pantera. Sembrava divertito. È proprio un fissato. Sono tutti così, questi immigrati dall'Europa. Ma veniamo a noi. Te la senti di scendere in miniera? Come minatore? No. Non ci sono mica minatori della pelle scura e nemmeno manovali. Porterai unghi, quelli sì. Intanto prenderai nota dei sobillatori, degli insubordinati, degli ibernici e dei Molly Magovish, completò Pantera. Linden ebbe un moto di perplessità, ma poi assentì. Esatto. Dimenticavo che lavori anche tu per l'agenzia, anche se sei... Il signor Pinkerton non mi ha ancora comunicato il numero di matricola. Allora che ne dici? Non mi piacciono i muli. Quanto dovrei stare là sotto? Ah, pochi giorni. Quando avrai le istruzioni complete vedrai che il tuo incarico è più preciso di quanto ti ho detto. In realtà una persona sola, la più pericolosa. In gergo la chiamiamo il druido. E capirai da solo il perché. Pantera non aveva la minima idea di cosa significasse druido, ma si guardò dal chiederlo e invece domandò: sarete voi il mio contatto? Ah, no, tra un'ora lascio la città, ti rivolgerai alla persona di cui Pinkerton deve averti parlato. Come ti ha detto di chiamarlo? È conosciuto con due nomi. Il momento era difficile, Pantera esitò e subito gli occhi del capitano si strinsero sospettosi. Per fortuna, lo slavo col fiocco nero si stava alzando per uscire, doveva passare vicino a loro. Il messicano impietrì i lineamenti. Meglio non nominarlo in nessuno dei due modi, tanto ci siamo capiti. Linden si rassegnò. Hai ragione, beh, è a lui che dovrei presentarti. Lo trovi stasera in qualche saloon. Gli piacciono la birra e il whisky. E le donne, e fece l'occhiolino. Sì, è vero, però piacciono a tutti, a lui persino troppo. In quel momento l'uomo col fiocco sfiorava il loro tavolo, zoppicava,

questi erano Elfrum Minds con il brano Serve or Suffer. Allora, prima di continuare con la lettura del libro, dell'ultimo capitolo, che lo divideremo in due parti, diamo una breve notizia che ci arriva dal cancello d'Alessandria. Praticamente i due compagni Sergio e Alfredo, che stanno facendo il sciopero della fama, l'abbiamo detto prima, perché gli vengono negati i colloqui con le rispettive compagne, ci fanno sapere che stanno bene e sono determinati ad andare avanti, e salutano tutti. Per chi vuole scrivere a Sergio e ad Alfredo, Sergio Maria Stefani e Alfredo Cospito, carcere San Michele, strada statale 50/15122 Alessandria. Poi, per chi vuole sapere ulteriori informazioni, sul blog c'è una mail sotto l'articolo che parla di questo aggiornamento di Sergio e Alfredo, e può mandare direttamente una mail e chiedere gli aggiornamenti là. Invece, per quanto riguarda le microspie, ne leggiamo un'altra, sempre nel campo digitale, una microspia digitale, più che altro una microspia radio digitale, che effettua una trasmissione digitale garantendo un'assoluta chiarezza del suono. Questi tipi di microspie utilizzano una sofisticata tecnologia che ottimizza la qualità della trasmissione, e soprattutto grazie al sistema di codifica rende indecifrabili i dati trasmessi a chiunque cerchi di ascoltare il segnale del trasmettitore digitale. Solo chi possiede il ricevitore con la chiave di decodifica può ascoltare la trasmissione in chiaro. Queste microspie digitali ambientali sono di altissima qualità e usano l'inversione di spettro, ovvero frammentano il segnale da trasmettere in pacchetti dati che vengono poi codificati e trasmessi. All'altro capo della trasmissione, il ricevitore rimette insieme questi pacchetti come pezzi di un puzzle, provvedendo a decodificarli con l'apposita chiave e ad renderli ascoltabili e comprensibili per chi riceve. E questa era per quanto riguarda questa ennesima microspia. Ora ci continuiamo il libro, e poi dopo musica e si ritorna qui in altra volta. Six, Zex, Sis, Sei, gli acchiappatopi. Improvvisamente Linden sembrava avere fretta. Si alzò e, senza nemmeno aver finito la birra, disse: «Canaglie! È della peggior specie, dico bene, Gustav?» Il tedesco si era avvicinato, forse per farsi pagare. «Parlate degli irlandesi, capitano?» «Avete perfettamente ragione, durante la guerra civile stavano con il sud, con gli schiavisti. Basterebbe questo a far capire chi sono.» Gli occhi di Linden si fecero per un attimo sognanti, come se fossero stati attraversati da un ricordo piacevole. «Già, i tumulti contro la leva. Che repulisti, ne abbiamo ammazzati un bel po' a quel tempo, ma evidentemente non abbastanza.» Frugò tra i bottoni dell'uniforme fino a estrarre il portafoglio. Porse a Gustav due monete d'argento. «Pago per me e per il mio amico. Non darmi il resto. Tienilo per quello che verrà dopo.» «Quando vi rivedrò?» chiese Pantera. «Ah, non tanto presto. Pensa al lavoro e ai muli. Per lavoro intendo quello di cui ti ho parlato. Ci vediamo, Gustav!» «A presto, capitano. Bis bald!» Linden fece un gesto di saluto e uscì quasi di corsa dal saloon. A Pantera non dispiacque quell'allontanamento. La conversazione si era fatta molto insidiosa e difficile da sostenere. Tutta la situazione, a dire il vero, sembrava insostenibile. Avrebbe avuto bisogno di riflettere, ma Gustav si teneva presso di lui. «Avete quasi finito la vostra birra», osservò il tedesco. Guardò le monete che avete in mano. «Qui c'è di che pagarne altre due, come minimo.» «No, portamene una mezza», disse Pantera infastidito. Rimasto solo, vide che lo slavo al tavolo vicino lo fissava, ma non gli fece caso. Frugò nello spolverino fino a trovare qualche sigaro e degli zolfanelli e si mise a fumare. Di solito era un buon aiuto per riflettere. Gli ibernici, o almeno quelli che tra essi che si facevano chiamare Molly Maguiris, lo consideravano dei loro, il campo avverso anche. Tutto riposava su fortunate combinazioni che potevano restare in equilibrio massimo 2 giorni, a essere ottimisti. E per di più Bally Bill, che lui aveva colpito in organi del corpo non vitali, si sarebbe ripreso. Degli aggressori l'unico avviso scoperto era stato Pantera. E quanti messicani c'erano nei patches di minatori attorno a Shenandoah? No, decisamente stava camminando sul filo del rasoio. A occhio e croce la missione che gli avevano affidato Molly e Jim Carroll era già fallita, a meno che non individuasse e uccidesse l'informatore quella sera stessa. Finì la birra e raggiunse il bancone. Gustav lo stava disponendo sul piano di zinco delle ghiottonerie ben poco attraenti. Focacce e pagnottelle piuttosto glossi, coperte di zucchero, frutti canditi su un piattino sporco, dolcetti invecchiati nel retrobottega. Il tedesco si rizzò per dire con il suo accento stridulo pieno di aspirate: «Avete sentito il capitano? Tutto ci ha pagato!» Pantera cercò una via indiretta per avviare la breve conversazione che gli premeva. La trovò nei manifesti appesi un po' ovunque. Chi è quell'Adolf Strasser che firma tanti documenti? Noto anche che ricorre l'indicazione di Filadelfia. Però sono scritti in tedesco. Fu palese che Gustav non sapeva se trovare la frase riguardosa oppure stimolante, e infine disse, con rispetto: «Il compagno Adolf Strasser è un calzolaio di Filadelfia, l'uomo più importante dopo Friedrich Albert Sorg, che è il segretario dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori a New York. Strasser sta anche progettando un partito politico, il Working Man's Party of the United States. Tutta l'America ne sentirà parlare». America? Diciamo l'Unione. Pantera accompagnò quelle parole con una smorfia subito cancellata. Strasser, Sorg, non mi sembrano mica nomi americani. E chi sarebbero gli americani, secondo voi? Pensate forse di esserlo? Nell'intonazione di Gustav non c'erano né ironia, né sfida, né collera. Quelli che si dicono tali sono solo immigrati dall'Inghilterra prima di noi, talvolta poco prima. Dall'Inghilterra o dall'Irlanda? Per una volta il viso paffuto di Gustav, ornato da baffoni biondi e da un ciuffo ribelle sulla fronte stempiata, dimostrò animosità. «Oh, quelli no! Non venitemi a parlare degli irlandesi! Proprio mentre il signor Karl Marx scriveva a Lincoln per dirsi solidale con lui, la feccia dell'Irlanda causava disordine per non combattere contro i confederati, uccideva i negri, li castrava. Una manica di porci e di ingrati. Ecco quello che sono!» Era lo stato d'animo che Pantera voleva suscitare. Finse con senso, giustissimo. Ma non dovete crederli consapevoli. Come non hanno coscienza, così non hanno intelligenza. Seguono caporioni senza fiatare. Gustav si illuminò tutto. «Ecco, dite bene, e nessuno sa cosa abbiano in mente i caporioni. Cosa pensino veramente?» Abbassò la voce e indicò una finestra, dal vetro tanto opaco che fuori sembrava esserci la nebbia. «Fate 2 passi verso il municipio. Sul cammino troverete una piazzetta con al centro il mozzicone di un palo bruciato 3 giorni fa. Gli irlandesi fanno così ogni 25 giugno. Alzano un palo, gli appendono legni e scatole, lo bruciano». Pantera stentava a capire. «E con ciò?» chiese perplesso. «Il 25 giugno non è una festa religiosa, né per la fottuta chiesa papista, né per la gente normale. Per gli irlandesi sì. Questo non vi suggerisce nulla?» «No». «Cosa dovrebbe suggerirmi?» «Che quella gente pratica una religione tutta sua, completamente diversa da quella che dichiarano». «Anch'io pratico una religione tutta mia», rispose il ruvido Pantera con un'alzata di spalle. Stava per uscire quando un pensiero improvviso gli attraversò la mente. Si girò verso Gustav, che aveva ricominciato a lavare i bicchieri. dite, il 25 giugno bruciano anche gli spaventapasseri, intendo loro, gli irlandesi. Oh sì, nelle campagne in Land. Loro negano, ma si dice che vi leghino anche qualche animaletto, cagnolini, conigli e altro. Li imprigionano sotto pupazze di stoppi e danno fuoco, ciò malgrado si dicono cristiani. Disgustoso. Ma chi è che li comanda? Ascenando, ah? Chris Donnelly, lo sanno tutti, il tesoriere degli ibernici, da me non metterà mai piede. Che se ne stia al salon di Muff e di John McKenna e degli altri suoi compari. Era ciò che Pantera voleva sapere. Uscì in strada e subito cercò con gli occhi il palo di cui aveva parlato il Dutch. Chiamava mentalmente così i tedeschi dell'epoca della guerriglia del Missouri. Non era in vista. Si incamminò verso quello che sembrava essere il centro della città per via degli edifici più alti e addossati. Pantera rimpiangeva di aver lasciato il suo Nganga a Tamaqua, dentro la valigia affidata a Molly. Senza l'anima di un morto con sé, un palero diventava vulnerabile e non poteva abbandonarsi al semplice istinto. Pantera era dunque costretto a seguire logica e ragione, senza confidare in interventi soprannaturali. Appena possibile avrebbe miscelato e bollito un altro Nganga, ma per ora doveva soprattutto tenere gli occhi bene aperti. Shenandoah aveva tutta l'aria di una minuscola capitale. Le strade secondarie erano di terra battuta come a Tamaqua, ma qui, nelle vie centrali, era tutto un transitare di carri e di calessi, all'ombra di palazzi pretenziosi. Lasciata la periferia, sparirono le prostitute, sostituite da dame e da donne di fatica. Sparirono anche i saloon, rimpiazzati da alberghi di aspetto cosmopolita. Quelli che conversavano sulla soglia erano gentiluomini impeccabili, con marsine ben stirate e sciarpe e cravatte di seta. Molti passanti erano della stessa specie, sebbene non mancassero i facchini e i carrettini, per lo più negri. I popolani, comunque, non facevano ombra ai signori, semmai ne facevano risaltare la distinzione. Rispetto a Laredo e alle città che Pantera conosceva meglio, lì mancavano le armi. Anche sotto i cappotti non si notava il rigonfiamento dei revolver alla cintura. L'unica arma che Pantera vide fu un fucile Henry tra le braccia di un uomo calvo che indossava una divisa unionista tutta logora. Assieme ad altri sfaccendati commentava il manifesto appeso sotto il portico di un emporio che offriva la taglia altissima per la cattura di Frank and Jesse James. E non era il primo avviso di quel genere che Pantera vedeva in giro e ogni volta la ricompensa era più elevata. Il nome dei James gli riportò alla mente antichi ricordi che respinse. Finalmente trovò il palo bruciato. Sorgeva ai margini di un crocicchio e più che altro era un mozzicone conficcato nel terreno. Aveva appena cominciato a esaminarlo quando, alle sue spalle, una voce simpatica disse: «Amico, vedo che hai del tempo da perdere, ti interesserebbe forse un lavoro facile, rapido e pagato bene?» Quando Pantera si girò si trovò di fronte un uomo grasso, vestito senza particolare eleganza ma con decoro. I tratti del viso erano larghi, rudi e volgari e i baffoni arricciati all'insù facevano pensare al padrone di un circo o di una compagnia teatrale. Un mezzo sorriso gli scopriva denti grossi e gialli. «E perché lo proponete proprio a me?» chiese Pantera senza celare la propria diffidenza. «Perché sembri un messicano. E io ho già 4 messicani nella mia squadra. Me ne serve un quinto per completarla. Se vi capite tra voi, lavorate più spediti. E quale lavoro sarebbe?» L'uomo allargò il sorriso per renderlo più cordiale. «Mi chiamo Ricci. Secondo Cosimo Ricci. Mi occupo di deratizzazione. In parole povere, libero gli alberghi e le case di lusso dei ratti. Poche specializzazioni sono più richieste ascenando a e paraggi. La sorpresa mozzò per un attimo il fiato a Pantera. Un acchiappatopi? Beh, in effetti mi chiamano così. Ricci fece una smorfia. Ma ti ripeto, pago bene. Oggi arriva al Pennsylvania Hotel il signor Gowen in persona. Franklin Gowen. Naturalmente la direzione non vuole che si trovi Pantegane in camera. Fino ad un istante prima Pantera era pronto a rifiutare seccamente e a mandare al diavolo l'interlocutore. Il nome di Gowen lo bloccò. Lo aveva udito ormai troppe volte. Era tempo di saperne di più. Inoltre, fino a sera, non aveva nulla da fare. Dite che è un lavoro rapido? Sì, qualche ora in tutto. Aggiungo che offro io il pranzo a tutta la squadra, più una birra quando avete finito. Che ne dici? Che accetto. Il sorriso di Ricci si ampliò e si fece sincero. Così si ragiona, ragazzo mio. Vieni, l'albergo è a due passi. Erano All Gone Dead con il brano New Speak. Allora, prima di finire con l'ultimo pezzo del capitolo del libro Antracite, ci andiamo a leggere le ultime due microspi e vediamo di spiegare un pochino ancora di più questo vario e fangasoso mondo spione. Allora, questa una, la prossima è praticamente una microspia video UMTS. anche se possono essere montate in lampade da tavolo, ciabatte elettriche o all'interno di scatole di derivazione per ottenere il massimo delle prestazioni grazie all'alimentazione continua, evitando così di doverle ricaricare. Le microspie video trasmettono con una qualità eccellente, segnale audio video a distanza illimitata. Per spiegarci allo sbirro basta munirsi di un apposito video telefono UMTS o di un portatile con un apposito software di visualizzazione e chiavetta UMTS, con la possibilità quindi di videoregistrare tutto ciò che accade nell'ambiente e visualizzarlo in un qualsiasi momento. Per la distanza di monitoraggio audio-video illimitata, le microspie ambientali e video MTS vengono spesso installate in autoveicoli o in elettrodomestici autoalimentati. Un'ultima microspia è una telecamera snake a fibre ottiche per fessuri e buchi delle serrature. È una telecamera piccola, una telecamera con un sensore CCD a un quarto di pollice a colori corredata di cavo flessibile in fibra ottica della lunghezza di circa 80 cm, ideale per riprese attraverso fessure, porte, buchi di serratura e spazi ristretti in genere. La microcamera si connette ad un sistema di trasmissione wireless. E questo almeno per oggi per quanto riguarda le microspie. Poi nella prossima diretta ne racconteremo ancora un'altra. Ora andiamo avanti con il libro, l'ultimo pezzo del capitolo di oggi. Ormal zu du bulle schweine. Nessun campanile suonava l'ora, ma doveva essere circa mezzogiorno. Il sole si era fatto abbastanza vivace, anche se continuava a non scaldare. Per le strade, passanti, carri e cavalli erano quasi del tutto scomparsi. Dietro il palo bruciacchiato, poche donne di fatica riempivano secchia una fontana. Alcuni monelli giocavano con l'acqua della vasca, prevalevano, specie agli angoli con i vicoli, sentori di aglio e di fritture, rarefatti ma persistenti fin sulle vie maestre. Il Pennsylvania Hotel stentava un lusso smodato. La facciata a tre piani era tutta stucchi, con tanto di colonne che scimmiottavano l'architettura greca. La porta girevole era a vetri. Vi sostava davanti un povero diavolo con marsina verde, pantaloni a righe e una tuba altissima sul capo canuto. Praticamente un clown. E forse consapevolmente di sembrare tale, fissava triste le vetture eleganti in sosta sulla strada, con i loro fiaccherai appisolati in serpa o alle prese con la biada per i cavalli. Ricci e Pantera non entrarono all'ingresso principale, bensì da un corridoio basso rivestito di pietre e tubature che si aprivano in una traversa. Poco oltre la soglia un agente della Coal and Iron Police li bloccò. «Fermi, fatevi riconoscere!» «Sono l'acchiappatope», spiegò Ricci un po' riluttante. «Questo è uno dei miei uomini, mi avete già visto agente più di una volta. Va bene, passate pure, ma andate direttamente in cantina, vi terrò d'occhio». La scala ripida per uno scantinato era a metà corridoio dove la volta si faceva più scura. Ricci guidò la discesa agevolata da lampade a petrolio che ardevano a intervalli regolari. Pantera non si era atteso di sbucare in un androne così grande, dal suolo lastricato con mattonelle larghe e coperte, a tratti da un dito buono d'acqua fangosa. Vi si aprivano numerose celle, tutte con porta spalancata. «Ragazzi, dove siete?» chiese Ricci senza alzare la voce. «Dico a voi, muchachos! Non fate rumore, altrimenti sopra vi sentono». Quattro individui, di cui tre scheletrici, comparvero quasi nello stesso istante, provenienti da celle diverse. Il tratto comune era che avevano occhi nerissimi e febbricitanti, baffi spioventi, visi emaciati. Li distinguevano fattori esteriori. A parte i cenci disparati per colore e per foggia, due di essi reggevano degli spiedi. I topi che vi erano infilzati ancora vivi zampettavano e squittivano disperatamente. Un terzo uomo stringeva un coltellaccio insanguinato e il quarto, un nigro con un poncio sulle spalle, il più robusto tra tanta magrezza, una piccola clava, anch'essa ricoperta di sangue. Quest'ultimo rivolgosi a Ricci con accento accorato. Signor, secondo Cosimo noi facciamo del nostro meglio, ma i topi sono miriadi. Le cantine dell'albergo sono ricavate da una miniera abbandonata. Ci sono tanti ratti quanti in miniera, a volte grossi come cagnolini. Niente paura, rispose Ricci mentre si esibiva in uno dei suoi sorrisi più smaglianti. Vi porto rinforzi, il miglior acchiappatopi del paese, richiesto perfino in Canada. Inoltre è un vostro compaesano. Che cosa volete di più? Indicava Pantera, stupito da tanta faccia tosta. Il messicano si sentì scrutato e ciò gli diede fastidio. Ma doveva adeguarsi e resse con pazienza gli sguardi stupiti di quelle larve umane. Ricci, dopo aver elargito ulteriori sorrisi compiaciuti, serrò le labbra. Il suo timbro acquistò una leggera imperiosità. Vi devo lasciare, buon pranzo, tornerò più tardi con i dollari che vi spettano. Ma voi fate bene il vostro lavoro, nessun ratto in vita deve raggiungere i piani superiori. Rimasti soli, gli acchiappatopi presero a parlare in spagnolo, tutti assieme. Pantera era l'oggetto scontato della loro curiosità. Le domande si accavallarono. Chi sei? A donde vienes, amigo? Somiglia a mio cugino José Eduardo. ¿Conoces? Abita il presidio. Perché tieni l'impermeabile? Qui sotto è caldo, conviene lavorare in camicia. Forse ci tiene all'eleganza. Siamo nell'albergo di Luzza, non è vero? L'ultima uscita suscitò un coro di risate che si dispersero lungo le gallerie. Pantera si guardò dal rispondere. L'unica domanda interessante venne dal negro con la clava che gli toccò una mano causandogli un sussulto. Riconosco Laia, il tatuaggio che hai sul polso. Lo devi avere su tutto il corpo, rayado in palo, non è vero? Palo mayombe, regla comba. Beh, siamo cugini, io sono della regla Lucumi, mi chiamo Learco. Pantera inarcò un sopracciglio. E che ci fa un Lucumi qua giù? Potrei chiederti cosa fa un palero qua giù. Per quanto mi riguarda, preferisco fare l'acchiappatopi che il manovale o il mulattiere in miniera. Meglio acchiappare i teres che rischiare la vita. Perché? Nelle miniere la vita è a rischio. Devi essere davvero un uomo della zona. Lo sai quanti sono stati morti negli ultimi anni tra Skykill, Canti e Carbon? Più di 5.000. Tutti schiacciati, affissiati o sepolti. Molto meglio dare la caccia ai topi che fare la fine dei minatori. L'uomo si esprimeva con intelligenza e persino con una certa proprietà. Pantera lo osservò con attenzione. La corporatura era massiccia e ciò dava al viso nerissimo, ornato da baffoni e basette, un aspetto brutale. Tuttavia lo sguardo era vivace e la fronte nascosta da una cascata di riccioli abbastanza spaziosa. Difficile dare un'età a quell'individuo, 30 anni forse, o poco più. La base del collo taurino, visibile grazie alla camicia sbottonata, terminava in un cespuglio di peli. Sotto però erano visibili dei tatuaggi bluastri. Ci mancava solo un altro stregone mezzo africano, disse uno dei messicani con lo spiedo allargando le braccia. Un paio di topi toribondi caddero a terra. Gli rispose il compagno col coltellaccio, il più smilzo di tutti. Attraverso la camiciola aperta gli si potevano contare le costole ad una. Stregone o no, sono due braccia in più. Via, al lavoro, qui sotto ci sono più ratti di piducchi che abbiamo in testa. È il pranzo, obiettò Pantera. Ricci mi ha parlato di un pranzo. Ah già, le sardine ci sono ancora tutte se le vuoi, noi le abbiamo lasciate lì. Devono averle tolte dal sale almeno un anno fa e adesso si sbriciolano appena le tocchi, quanto al pane è raffermo, o almeno credo, vista la muffa che c'è sopra. Pantera, che si aspettava qualcosa di simile, non fece obiezione. Seguì invece i compatrioti che si erano messi in fila e cercavano di camminare senza far rumore. Stavano curvi, ma si drizzarono tutti di un colpo quando da una cella venne un frastuono attutito da pietre rimosse. Subito dopo, decine di grossi topi fecero esplosioni nel corridoio, scottivano e zampettavano furiosamente. Pantera se ne trovò tra le gambe e al lato, come se le bestiole formassero un ruscello di peluria grigia. Cercò di calpestarne un paio con gli stivali, ma non ci fu verso. Davanti a lui i compagni calavano con rabbia coltellaccio, mazza e spiedi. Squittii più forti fecero capire che ogni tanto coglievano nel segno. L'afflusso dei ratti però non si arrestava. «Cosa fai l'impalato?» gli gridò Learco. «Cerca un arnese! Un arnese qualsiasi! Pestali! Pestali forte! Ammazzali! Ammazzali!» L'unico utensile che Pantera aveva a portata di mano era una delle lampade a petrolio che pendevano dalla volta. La staccò e la abbatté su alcuni topi senza curarsi troppo di cogliere nel segno. Si udì un rumore di vetri infranti, poi lo squittire si fece assordante. Il petrolio incendiato si era appiccicato al vello delle bestie e la vicinanza di queste lo trasmetteva dall'una all'altra. Si vide l'avanguardia dei ratti fare marcia indietro e tornare sempre di corsa verso la cella. I messicani saltellavano per evitare che anche i loro pantaloni prendessero fuoco. Al suolo rimasero decine di carcasse grigiastre, ancora coperte da fiammelle leggere. Il sangue galleggiava a strisce sui liquami. «Ecco la soluzione!» esclamò lo smilzo col coltellaccio in mano. «Bruciarli!» Il negro scosse il capo con scetticismo. «Sì, è così, restiamo al buio senza contare il rischio di scoppi. Se conoscete le loro tane basterà rinunziare ad una sola lampada», osservò la Pantera. «Come avete visto, bruciano tutti assieme. È sufficiente versare un po' di petrolio in ogni condotto». Learco ridacchiò. «Tu non hai ancora visto le tane dei Teres? Vieni, vieni, vieni, vieni, vieni, te ne mostro una, guarda, Kukmalda!» Mosse verso la cella, la clava alzata a metà per essere pronto a colpire. Prima di entrare spiegò. «Se i topi sono tanti è perché i minatori rifiutano di ucciderli. Sanno che in caso di disastro imminente i ratti sono i primi a scappare. La gente delle miniere non ha altro sistema per salvarsi la vita». «E tu dicevi che questi disastri accadono spesso?» «Oh, sì, di continuo, ma per lo più si tratta di crolli minori in cui un minatore o due soltanto ci lasciano la pelle o forse perdono le gambe. L'incidente più grosso ci fu ad Avondale nel 1869. Un centinaio di operai morirono asfissiati a causa di un incendio. In quel caso però i topi non servirono a nulla, morirono anche loro». Nella cella Pantera rimase sbalordito. «E quella sarebbe una tana?» «Sembra incredibile, ma lo è. Questo ti fa capire quanto sono grosse e forti quelle bestiacce». Nella parete umida incrostata di muschio nel cubicolo si apriva una larga cavità dai contorni irregolari. Davanti si accumulavano frammenti di mattone e polvere fine. Veniva da pensare che i topi, spinti dalla fame, rosicchiassero persino i laterizi fino a ridurli in un mucchietto di petrisco viscoso. Dalla cavità uscivano rumori simili a voci molto distanti. Pantera staccò una lampada dal supporto e si chinò sul buco per udire meglio. Il suo viso fu lambito da una fiammata mentre una piccola esplosione rombava nel sottosuolo. «Che fai, stupido?» urlò il negro. «Laggiù è gonfio di gas!» Subito le voci che uscivano dalla breccia salirono di tono e si fecero distinte. «Cos'è stato? Deve essere scoppiato qualcosa sotto di noi!» A me sembrava uno sparo. No, no, signor Gowen. Stia tranquillo, never mind. Nei sotterranei sono in corso dei lavori. Sarà, Leutnant. Prenda due uomini e scenda a vedere. Mi porti qua il responsabile. Learco puntò il dito su Pantera. Hai visto che qua hai combinato, idiota? Corse verso gli altri acchiappatopi turbati quanto lui. Manos, qui è meglio filare, vengono giù le guardie, possono essere guai. Gli altri non si fecero pregare e fuggirono verso il fondo del corridoio. Invece Pantera marciò calmo verso le scale da cui era venuto, poggiando bene i piedi per evitare le carcasse dei topi bruciacchiati. Era a metà salita quando si imbatté in tre agenti della Coal and Iron Police che stavano scendendo. Ecco il nostro uomo, disse quello che probabilmente era il capo. Alza le mani e vieni su lentamente, molto lentamente, slowly, slowly. Pantera non alzò le mani, si limitò a scostare dallo spolverino i palmi aperti, però salì adagio finché non fu in piena luce. Questo è tutto fuori che un molly, commentò una delle guardie. Perquisitelo ugualmente, ordinò il capo, esistono anche i ladri e per questo, per quanto sempre incredibile, qualche volta non sono irlandesi. La gente che trovò addosso al messicano la Smith & Wesson rimase sbalordito e gliela sfilò dalla cintola quasi con reverenza, la passò al superiore reggendola con due dita per il calcio. Leutnant, sergente, guardate che razza di cannone portava quest'uomo. Pesa almeno 2 libbre. Il miracolo è che le braghe gli stessero su ugualmente. Anche il sottufficiale parve impressionato, soppesò l'arma. Non mi direi che questa l'hai comperata all'Emporio, disse a Pantera mentre si grattava il cranio rasato a zero. Avvicinò il revolver sequestrato al naso lungo e ai mustacchi. C'è odore di polvere e di fumo, non è molto che hai sparato con questa. Ti conviene subito dirmi a chi? Ai ratti, rispose il messicano impassibile. Io sono uno degli acchiappatopi che lavorano per l'albergo. Questa la racconto a tua sorella. Dimmi chi sei. Non a voi, parlo solo con un vostro ufficiale. Il sergente fu palesemente sul turno di schiaffeggiare il prigioniero. Se desistette fu grazie all'osservazione di uno degli altri agenti. Il signor Gowen vuole interrogare direttamente l'autore dello scoppio, sergente, ricordò quello con molta cautela. Forse è meglio non ammaccare troppo il nostro uomo. Già, già, ammise il sergente riluttante. Abbassò il braccio e investì Pantera con rabbia. Intanto cercava una tasca abbastanza capiente da contenere la Smith & Wesson. Schifoso mezzo sangue, devi segnare questa data sul calendario tra i giorni fortunati. Incontrerà il signor Gowen in persona. Franklin B. Gowen, sai chi è? Non è vero? Certo che lo so. Io lavoro per lui. L'affermazione moltiplicò lo sconcerto delle guardie. Il sergente, dopo un istante, spinse Pantera, ma senza troppa violenza. Tra un attimo sapremo se dici la verità. Cammina avanti e non fare scherzi. Pantera si mostrò docile e tranquillo, eppure non era tanto sicuro di sé. Senza revolver e col Nanga lontano, si sentiva vulnerabile, troppo per i suoi gusti. Allora, per oggi finiamo qua la diretta d'azione, anche se siamo anche prolungati anche una mezz'oretta in più rispetto al solito. La lettura di Andracide, come tutti sanno, si riprenderà lunedì. Invece per la diretta d'azione, quella classica, quella solo contro informazione e musica, andrà in onda venerdì. Lo ricordo che venerdì prossimo, perché di Napoli ci sarà un'iniziativa alla mezza occupata via Mezzocannone 16, Alle 6:30 c'è una mostra su Marco Kamenich, ci sarà una discussione su Marco e bene o male sui temi che possono essere più affini, per cui ha combattuto il compagno in carcere in Svizzera, e poi dopo una cena per pro detenuti. Quindi appuntamento per l'appuntamento di venerdì, di sicuro con l'orario sicuro lo troverete sul blog radiazione.noblog.org, sicuramente prima di venerdì, entro giovedì troverete l'orario. Quindi sarà molto, molto probabile che venga anticipato la diretta, vista che l'iniziativa è alle 6:30. Allora io vi lascio con un brano di Fears of Nephilim, il brano è Slow Kill, e con noi l'appuntamento è a venerdì. Radio Action.